ave morsi del cor vinto lo sdegno fulminare non sa sull'altrui colpe nuovo mi si destò consiglio in cuore onda ferita dell'antico inganno da mira il ver paledi io sembrerò crudel quando amoroso e son tutto pietà come che brami predilesa maestà col figlio tuo da mira e merce fia del nostro amore ti assolvo e lui perdono ora di mia clemenza non t'abusar che t'offre ciò che poi supplice non avrai tu però i sensi soscriver dei di questo foglio leggi popoli amor di madre cieca mi rese del soldan tentai gli affetti e mi sortì cambiando i porti piglia con firmi foglio tal uccidi al giusto in van ripugni sami esser giusto a lui ritor lo scettro prezzo di quello che io per dei non puoi nel dei sarebbe in dono che da vil ritrattar grazia concessa or di più non cerchia e dubbi dire t'appresta io così voglio pria la mia man mi tronca e la riavvita e poco fora ciò risveglio mai quel furor che languiva in sen d'amore mi volete crudel voglio esser empio perché amoroso e giusto sarò a più fieri padri orrido esempio odi reo del germano e reo del padre strinse menindo il brando offesi il sangue e la maestà oltraggiata da padre e da sovran giustizia implora e giustizia si dia e l'indomora in un mano t'arresta e sangue tuo quello che versar vuoi se quel tu nieghi io questo foglio segno ferma, ferma già tu mi disto amato figlio perdona se ti tolgo a tua grandezza per serbarti alla vita ma tu come potrai veder un figlio che fu la tua delizia sul cui labbro tanti baci imprimesti tanti affanni or più non soffri indugio o scrivi occhio crudele sospendi la fatal sentenza se tardi più l'ubbidienza è vana son pronto man crudele e ministra sarai di tanto cesso parti non più io la soscrivo adesso damira impaga già l'empia tua brama godine traditor godine degno si salvi il figlio e poi si pensi al regno